Letture di Radio 24. Il personaggio di Conan il Barbaro, nato nel 1932 dalla penna di Robert Erwin Howard, ha conosciuto una grande popolarità grazie ai fumetti pubblicati dalla Marvel a partire dal 1970 e soprattutto grazie al film di John Milius del 1981 con Arnold Schwarzenegger nel ruolo del protagonista. Nel corso della sua breve vita, morì suicida a soli 30 anni, Howard scrisse 17 racconti e un romanzo dedicati a Conan, anche se diversi racconti e frammenti inediti vennero pubblicati dopo la sua morte, molti dei quali completati da Lynn Sprague de Camp. La vastissima produzione letteraria e fumettistica dedicata a Conan è stata più volte oggetto di studio. L'ultimo in ordine di tempo è quella di Enrico Santodirocco, che nel volume Conan la leggenda analizza e cataloga tutti i libri, fumetti e film dedicati al Cimmero, oltre ai videogiochi e al merchandising. Ecco come Santodirocco descrive il carattere di Conan. Conan è barbaro nelle sembianze, violento nei modi e non sempre nobile negli scopi che lo muovono. Si dedica infatti al furto, all'omicidio e all'assassinio, ma è dotato nel contempo di un proprio codice d'onore che lo porta a essere feroce con chi lo inganna e leale con chi lo aiuta e gli dimostra amicizia. Conan mantiene la sua parola, anche a costo di cacciarsi in situazioni disperate. In questo è profondamente diverso dalla media degli uomini del suo tempo, che sono maliziosi e non esitano a tradire il prossimo alla prima occasione. Questo suo modo di essere lo pone completamente fuori posto in un simile contesto di totale corruzione, facendolo svettare come un lupo grigio in mezzo a una massa di topi di fogna. Ma il suo agire limpido non è l'unica caratteristica a distinguerlo dagli uomini civilizzati. Conan è attaccato alla vita e pensa al presente. Non si pone domande sull'aldilà o sul senso dell'esistenza. Tutto ciò che conta per lui sono i piaceri materiali e concreti che ricava da donne, cibo e battaglie. Conan non manca mai di assecondare i suoi istinti e quando ne ha l'occasione cerca svago brindando in sordide taverne e gozzovigliando con altre canaglie della sua stessa risma. Protagonista di momenti di incontenibile allegria, in alcuni casi fornisce anche prova di un suo particolare senso dell'umorismo. Conan si erge al di sopra di tutti i suoi avversari grazie a forza e agilità senza pari. Nonostante i muscoli, però, sa usare anche il cervello. È infatti estremamente portato per le lingue e durante i suoi innumerevoli viaggi parla una moltitudine di idiomi. Howard lo dipinge come un linguista dalle sorprendenti capacità, in grado di apprendere senza grandi difficoltà i rudimenti dei dialetti più complessi. Oltre a essere un esperto linguista, Conan è anche uno stratega nato. Questa caratteristica nasce da un insieme di elementi che, uniti fra loro, gli permettono una visione di insieme, spesso molto lungimirante. Conan, dalla sua, ha anche un'altra caratteristica che, sommata alla già citata abilità di stratega, lo rende un perfetto comandante: il carisma. La sua capacità di imporsi sugli uomini e di generare un vero e proprio seguito gli permette di comandare senza sforzo. Anche nelle situazioni più difficili riesce a calamitare l'attenzione su di sé e questo lo pone in condizione di riuscire dove altri, altrimenti, fallirebbero. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine del libro di Enrico Santodirocco, Conan, la leggenda. Odoia, 304 pagine, 20 euro. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Letture di Radio 24. Anche Anche se la legge italiana non permette l'adozione di bambini da parte di coppie omosessuali, alla fine chi decide sono sempre i giudici. Come dimostra la sentenza della Corte d'Appello di Trento, che in febbraio ha riconosciuto a una coppia gay la paternità di due gemelli nati negli Stati Uniti con la maternità surrogata. O quella del Tribunale dei Minori di Firenze, che nei giorni scorsi ha permesso a una coppia di due uomini italiani residenti nel Regno Unito di vedersi riconosciuta in Italia l'adozione di due fratelli. Il tutto mentre la Corte di Appello di Torino ha sancito definitivamente che una coppia eterosessuale non può riavere la propria bambina, che per un errore di valutazione era stata loro sottratta 7 anni fa e data in affidamento ad un'altra coppia. Tutto questo perché erano stati ritenuti troppo vecchi per fare i genitori. In realtà, perché di condizioni sociali non elevate, dato che la signora era diventata mamma a 56 anni, la stessa età che aveva Gianna Nannini quando ha avuto la figlia surrogata. Che colpa hanno questi genitori? Reato di anzianità, titola Massimo Gramellini nel suo editoriale sul Corriere della Sera. Da oggi in Italia esiste il reato di anzianità e la pena consiste nella sottrazione di un minore ai genitori biologici da parte della cosiddetta giustizia. Una signora del Monferrato ha avuto il torto inemendabile di mettere al mondo sua figlia a 56 anni. Il marito ne ha 12 di più, ma i padri brizzolati non fanno scalpore. Il problema è lei. Basta un episodio risibile, la bimba che rimane da sola in macchina qualche minuto mentre i genitori scaricano le borse della spesa e le scaldano il biberon, per accendere il falò del pregiudizio. I vicini di casa sbirciano dalla finestra e denunciano, gli assistenti sociali prontamente intervengono. Come ha osato quella donna partorire a un'età simile? Deve essere perversa, degenere. La piccola viene data in affido e poi in adozione, nonostante una sentenza definitiva assolva i genitori dall'accusa di abbandono. Fino al capolavoro kafkiano di ieri. Chiamata a pronunciarsi sull'adottabilità della creatura, la Corte d'Appello riconosce che la madre e il padre non hanno fatto niente di male, eppure si rifiuta di restituire loro la figlia perché ormai sono passati 7 anni e per lei si tratterebbe di un trauma. Ma quel tempo è trascorso per colpa dell'apparato burocratico, che prima ha sottratto senza motivo la bambina ai suoi genitori e poi ha tardato a riportarla a casa in nome di un pregiudizio legato all'anagrafe. Tutto questo nel paese che non toglie la patria potestà ai mafiosi, si riempie la bocca con la sacralità della famiglia e tira avanti grazie all'impegno quotidiano di milioni di nonni. Saranno dichiarati fuori legge anche loro. Avete ascoltato l'editoriale di Massimo Gramellini, Reato di anzianità, dal Corriere della Sera del 14 marzo. L'idea del reddito di cittadinanza, lanciata nel 2013 dal Movimento 5 Stelle, è ormai entrata nel vivo del dibattito politico, appoggiata sia dalla destra sia dalla sinistra. Ma nessuna delle proposte fatte finora corrisponde ad un vero reddito di cittadinanza, al punto che si potrebbe parlare di pubblicità ingannevole, commenta Luca Ricolfi in un articolo pubblicato su Panorama. Che cos'è il reddito di cittadinanza? È un reddito che lo Stato corrisponde a tutti i suoi cittadini, ricchi e poveri, su base individuale e non familiare, dalla nascita o dalla maggiore età, senza alcuna restrizione, obbligo o contropartita. Detto in altre parole, è un sostegno permanente e incondizionato, che proprio perché viene erogato a tutti e senza chiedere nulla in cambio, non richiede di mettere in piedi un apparato di amministrazione, controllo, monitoraggio dei beneficiari. Ebbene, molto si può discutere sui meriti e demeriti delle varie proposte messe in campo in Italia da partiti e associazioni, ma su 3 punti c'è perfetta sintonia. In tutte le proposte, il reddito che si intende attribuire non è destinato a tutti, ma solo ai poveri. È determinato su base familiare, anziché individuale, e prevede precise contropartite, non è incondizionato. In breve, è l'esatto contrario del reddito di cittadinanza. Da questo punto di vista, il massimo di bisticcio con la lingua italiana è offerto dal Movimento 5 Stelle, che per giustificare il titolo del suo disegno di legge sul reddito di cittadinanza, di fronte a chi giustamente criticava la scelta di un termine così fuorviante, non ha trovato di meglio che rispondere: «La nostra è una proposta di reddito di cittadinanza condizionato», come non sapessero che, per definizione, il reddito di cittadinanza è incondizionato, altrimenti è un'altra cosa, che in tutta Europa viene chiamata più prosaicamente reddito minimo. Ma quali sono le differenze fra le varie proposte di reddito minimo? Fondamentalmente sono cinque. Primo, la quantità di risorse stanziate, che va da un minimo di 1-2 miliardi l'anno, governo Renzi, a un massimo di 15-20, 5 Stelle e SEL. Secondo, la percentuale di famiglie o di individui beneficiari, che varia ovviamente in funzione delle risorse stanziate, ma anche a seconda degli importi e della durata. A questo proposito, vale la pena osservare che il concetto di povertà è così elastico che, a seconda di come lo si definisce, si può passare dal 7% degli individui, povertà assoluta, al 29%, rischio di povertà o di esclusione sociale, passando attraverso le platee intermedie del 14, povertà relativa, e del 20, rischio di povertà relativa. Terzo, le condizioni di accesso e di mantenimento del sussidio, che possono essere più o meno severe, potendo comportare l'obbligo di cercare attivamente un lavoro, di seguire corsi di formazione, di accettare proposte di lavoro retribuito, di erogare lavoro gratis in attività socialmente utili. Quarto, la complessità e il costo dell'apparato di amministrazione, sorveglianza, formazione, messo in campo per gestire i beneficiari. Un indicatore assai significativo in proposito è la quota delle risorse stanziate che non va in tasca ai poveri, ma a coloro che dei poveri stessi dovrebbero occuparsi, tipicamente tecnici, impiegati, assistenti sociali, formatori ed esperti, tutte figure appartenenti al ceto medio. Fra le varie proposte in campo, quella che meno concede agli apparati di controllo è l'imposta negativa, caldeggiata da Forza Italia, mentre quella che dirotta la quota maggiore di risorse alla macchina dell'inclusione sociale è quella dell'alleanza contro la povertà, come del resto è comprensibile, visto che occuparsi del disagio sociale è il mestiere più o meno volontario e più o meno retribuito di tante fra le associazioni che propugnano il reddito di inclusione sociale. Quinto, l'incentivo a cercare e trovare lavoro, che è fortemente compromesso dalla prospettiva di perdere in parte o in tutto il sussidio. Questo, in realtà, è il tallone d'Achille di un po' tutte le proposte, perché tutte, tranne in parte quella dell'imposta negativa, di fatto rendono alquanto conveniente non lavorare o lavorare in nero, una scelta che i recenti dati sulle dichiarazioni dei redditi, straordinariamente basse rispetto a quel che ognuno di noi vede a occhio nudo, mostrano essere tutt'altro che teorica. Che fare, dunque? Il mio consiglio è di fare come si fa, o si dovrebbe fare, quando si fa un investimento finanziario. Leggere attentamente il prospetto informativo, senza lasciarsi sedurre dalla pubblicità ingannevole dei proponenti. Avete ascoltato alcuni passaggi dell'articolo di Luca Ricolfi, Reddito di cittadinanza, pubblicità ingannevole, da Panorama del 9 marzo. In una società altamente cacofonica, il silenzio è un bene prezioso. Questo lo sapevamo già. La novità, semmai, è che ora diventa un business, e non solo relegato al turismo in luoghi isolati e privi di rumore. A Londra, Brilliant Corners, nel quartiere di Dalston, si è inventato le richiestissime serate Played Twice, durante le quali i clienti si siedono in una stanza buia, in totale assenza di altri suoni, se non la musica. È vietato parlare, commentare, applaudire. La svedese Happy Ears è diventata quasi un caso, con la vendita boom dei suoi tappi 3.0 per le orecchie, trasformati ormai in un accessorio cool. Da Kickstarter, infine, è in arrivo Muso, un dispositivo da attaccare al muro o alla scrivania, in grado di creare una sorta di spazio privato e privo di suoni, anche in mezzo all'ambiente più rumoroso. Dice il regista Patrick Shen, che ha dedicato al tema il suo docufilm in Pursuit of Silence, mettendosi in ascolto dei paesaggi e del niente. Il livello di distrazione con cui conviviamo oggi è senza precedenti. Siamo costantemente in allerta, viviamo tra una notifica e l'altra e siamo tutti esausti. Prima di aggiungere che non esce più di casa senza i suoi tappi nelle orecchie. E quello che avete ascoltato era l'articolo di Deborah Ameri, Che business il silenzio, dal magazine di La Repubblica dell'11 marzo.